piede del 140, tutto il frontalino completo. Credo che c'è anche la, però quello è demolito, la scheda PA, perché avevo recuperato i finali quando avevo bruciato il mio 440, li avevo recuperati da lì quando avevo dopo il fulmine, e quindi niente, e come dicevo io, tutto buttato via, perché cosa faccio quando recupero radio vecchie? Recupero tutti i pezzi che mi possono servire e poi cofano e tutto il resto butto via perché non so dove metterlo. Ho guardato, non è che non ho guardato, ti devo chiamare, e poi ho detto vabbè, tanto non l'ho trovato, poi lo chiamo, poi lo chiamo, poi ho guardato su proprio il giorno stesso, se no me ne dimenticavo. Ma negativo aver trovato qualcosa. E allora scusate, comunque così radiofrequenza non riuscivo a tarare l'FM, se andavo a vedere il cacciatore. Ho fatto dei tappi così veloci al volo, cioè fatti arrangiati, adesso va bene, comunque tutto sommato non è frega niente. Era giusto per lasciarlo in originale, perché se li ho da qualche parte, ce li ho, prima o poi ne uscirà. Ciao a tutti, grazie Fabri, ciao a vostro esempio. Ciao Vanni, riprendo io e poi... Sì Vanni, li puoi fare anche secondo me, è che tu di uno non ti ho più visto. Se c'è la forma li puoi fare in alluminio con quel materiale da commentazione, quello più grosso, e con quello tranquillo che schermi, più degli originali. Va bene, avanti Riccardino. Un attimino Riccardino, aspetta un attimino. Fabri, non è che c'hai per caso i tastini del 140, no? Quei tastini piccolini. Credo che siano anche uguali al... Sì, ce li ho, ma non lo smantello quel frontalino, capito? Non so se sono uguali al 440, non lo so, adesso non mi ricordo come sono. 430 ce l'ho qua davanti, 440 ce l'ho qua davanti e non ce ne so, sono diversi i tastini. Ma quei tastini quadrati rettangolari piccolini? Quelli che sono sotto sotto. Che dovrebbero essere uguali al 440, adesso non me lo ricordo, dovrei guardare il manuale, però magari qualche cosa se lo ricorda meglio. Qualcuno ce l'ho se è uguale al 440, qualcuno forse ce l'ho. Quanti te ne mancano? Uno me ne manca, non so come ho fatto a perderlo, boh, non lo so, ne è uscito e l'ho perso. Dimmi, aspetta che me lo cerco qua, dimmi qual è il tastino, che così ti dico se ce l'ho. L'ultimo sotto dove ci sono, aspetta che mi metto gli occhiali, sotto NB livello. Aspetta che guardo, sto scaricando un'immagine. NB1 e NB2 mi sembra, così ci scrivo. Quelli di sotto, guarda che probabilmente sono uguali al 140, se sono uguali al 440, se sono uguali al 440 qualche cosa la dovrei avere, perché qualche apparecchio l'ho smantellato, quindi qualche cosa la dovrei avere. Però non lo so, mi sembrano un po' più tondeggiati, chiedi a Claudio se sono uguali. Claudio! No, Claudio non c'è, chiediglielo e poi me lo fai sapere. Avanti Riccardino. No Riccardi, ci sono gli LPD e praticamente i PMR, ma sono frequenze a bassissima potenza, non puoi cambiare le antenne, non puoi fare niente, anche se poi qui ho visto li usano, così, però non si possono, sono frequenze libere. Però praticamente adesso è molto più semplice prendere la patente dei ragazzi amatori, ci sono dei ragazzini, se vuoi, se mi ha mandato il tuo numero Gianni, io adesso guardo, perché Gianni gli ha detto, no Marco, no Gianni non me l'ha mandato ancora, se mi manda il tuo numero Marco, Gianni, poi ti mando delle foto e ti dico anche cosa devi fare. Scusando se sto occupando un attimo la frequenza, Riccardi, non c'è niente di difficile, ha preso la patente anche gente tonta, ho visto prendere, capito? Ho visto anche gente che non se la meritava, è molto più semplice, hai detto l'esame, ma magari poi una mano te la... Basta studiare, di difficile non c'è niente, basta studiare, la patente riesci a prenderla, è molto più... Non devi più dare il CV doppio, quindi devi studiarti un po' di normative, devi studiarti un po' di antenne, c'è da studiare se sei lasciato un po' di elettronica, un po' di più da studiare, però voglio dire c'è il libro, ti prendi il libro, te lo studi e ci provi. Il problema è che tu sei, io ho capito, sei ragazzino, quindi ti devono accompagnare a Cagliari, però uno può andare a farsi una passeggiata dall'esame e se non passa ha già l'esperienza di capire come funziona, che vuol dire molto. E io quando facevo l'esame, per esempio a fianco a me ce n'era uno che l'ha dato 10 volte, quando siamo usciti mi ha chiesto come l'hai fatto, e ho detto sì, no, credo tutto bene, allora sono passato anch'io, ha copiato tutto e gli hanno dato la patente anche a lui, è la stessa cosa. Riccardi, non mi ricordo com'è, non vorrei sbagliare, ma a 14 anni mi sembra adesso è l'età minima, non me lo ricordo, perché abbiamo due ragazzini, mi sembra di 16 anni, che sono i ragazzini più giovani in Italia, che hanno fatto dei contest secondo le ragazze, ma veramente bravi, li ho visti trasmettere. Guarda, adesso se Gianni mi manda il tuo numero, io poi con calma ti mando qualche informazione, perché tutti quanti abbiamo iniziato con la 27, e comunque se uno è un po' intelligente non la rinega la 27, anche se diventa radioattore, anzi io posso dire che in questi ultimo mese, per esempio, che sto facendo molte attività radio, ne sto facendo poca, ma sto facendo molte attività di riparazione, apparecchi, modifiche e roba del genere, sto facendo un laboratorio molto, non nel mio tempo libero, e il 90% dell'ascolto lo sto facendo qua sul canale 10, sono sempre in ascolto, mentre c'ho tutti i punti memorizzati, c'ho tutto, eccetera, eccetera, e molte volte abbasso quando sento qualcuno che chiama perché sta ascoltando qua, e le HF ce le ho spente, per dirti, no? Se ti piace, ti appassiona, è una bella cosa, perché poi è un mondo enorme, perché parti dalle HF e arrivi fino ai satelliti, puoi fare, quindi puoi anche utilizzare i satelliti per trasmettere, e diventa anche molto, molto importante, capito, come attività. Vedi, tu dai, tu adesso inizi a questo e poi ti appassioni e vedi un attimino se ti piace, prosegui, anche ascoltare è molto bello, io faccio più ascolto che radio in questo ultimo periodo. Riprendi le cardine e fai girare. Ok, fai noi a fare girare, più rumbo, se ci sei ancora. Più rumbo, ci sei? No, Gianni è caduto, mi doveva mandare niente, vabbè, dai, avanti, chi c'è? No, ma lui me l'ha mandato il tuo numero. Ah, mandami un messaggio allora, che ti mando un paio di foto, va? Ok. Mettilo come, vabbè, poi te lo do, non te lo do, poi ti mando il vabbè, dai, mandami il numero. Ci ha parlato male di me, mi sta. No, non credo che mi avete mai sentito parlare molto male della gente a me. Sta scherzando, Fabio, l'ho mandato a lui il tuo numero e lo cerchiamo a questo numero che è Fabrizio. Mi è venuto mille, ok. Ci sto lavorando un sacco già, ci sto lavorando. Allora, ho iniziato la prima modifica che ho fatto, ho cambiato il finale di potenza e non so se ne vale la pena per un paio di watt, non lo so. E praticamente sì, aspetta che ho visto il messaggio, aspetta, sì, Riccardo, mi è arrivato, ok, mi è arrivato. Stavo dicendo, ho fatto la prima modifica, ho messo il finale, perché col finale devi cambiare una serie di resistenze di codo perché devi dargli la corrente giusta al finale. E lì l'ho fatto, poi ho fatto tutta la modifica, perché se lo modifico pesantemente, poi non so se ne faccio altri perché come di lavoro è un film blu. Allora ho fatto praticamente tutto il frontalino blu, ho cambiato il display e l'ho messo blu, poi ho cambiato le lampadine dello smitter blu, ho messo l'illuminazione nel frontale e l'ho messo blu. Quando trasmetti diventa tutto rosso, cambia il colore anche il LED di trasmissione che ce l'ha solo rosso l'ho messo doppio, quindi è tutto blu. Quando trasmetti va tutto rosso, diventa dallo smitter al frontalino e cambia anche colore il display. Gli effetti speciali li ho già fatti e poi adesso sto lavorando sulla scheda 120 canali, però mi sta dando problemi, ma credo che sia l'emulatore che ha problemi. Questa radio ha un emulatore, dovrò cambiare il PLL probabilmente, non lo so, ci sto lavorando. Diciamo che per me è un divertimento, se no a quest'ora con quello che c'è, alle ore che ci ho buttato sopra, vabbè, però è un gusto che mi voglio togliere. Ti mando il mio, Fabri, te lo faccio vedere. No, ma non è il problema, non è un problema di vedere uno o l'altro, questo qua praticamente, adesso mi resta da installare ancora il doppio modulatore e la scheda Echo con Roger Beep, per il resto c'è tutto, no, vabbè, la cosa più importante, ma quella faccio veloce, però mi sto cervellando con la scheda canali, però questa qua, l'ALAN 48 monta al posto del, non lo sapevo nemmeno io, non ci avevo mai lavorato su questa radio, praticamente al posto del PLL, al posto del PLL c'ha un quarto di riferimento, no? Lui con quel quarto di riferimento c'ha poi, vabbè, il sistema come funziona, non so se lo sai, e lui praticamente fa i primi 40, per fare gli altri 40 canali praticamente, metti questa schedina che c'ha due quarti, non fai altro che alimentare uno o l'altro e lui praticamente bypassa questa e praticamente come quarto di riferimento gli dà uno di quei due quarti che sono sulla schedina. Il problema qual è? Che lui lavora tramite, questi baracchini lavorano tramite un integrato, un integrato che è il 71 PLST, CL 7120, adesso non lo so. E al posto di quello praticamente alcune gare hanno messo un emulatore, capito? Un emulatore che non è altro che una schedina che fa quella roba lì, e questo c'ha questa schedina e mi sa tanto che è questa che mi sta creando problemi a me, e quindi volevo modificare proprio tutta la parte ed eliminare questo emulatore e montare il chip che montano altre radio, quelle forse potrei montare quello lì per vedere se, perché se non mi sta creando problemi. Ho capito. Se hai bisogno ti posso prestare il mio, te lo controllo. Sì, anche qualche ne ha uno, cazzo, ma problemi non c'è. No, ma poi con gli schemi io ho trovato tutto di questo, ho trovato schemi, mi ha fatto mandare questo ma blocco che è quello del 68 più uguale, ho fatto andare un sacco di roba, ho trovato scaricato, quindi c'è un po' tutto per poterci lavorare, non è un problema. Poi ho visto che in genere eliminano la scheda FM su questa radio, poi adesso vediamo se ci stanno, la elimino, non lo so, vediamo un po'. Se no ti do il mio, Fabri, se devi fare qualche lavoretto. Quindi qualcosa al mio anche. No, sto cercando questo, adesso siamo da Walter che stiamo facendo lavori grossi proprio, come un po' ci liberiamo da fare, diamo una riordinata e abbiamo già parlato, diamo una riordinatina lì dentro, c'è un sacco di roba da buttare che non serve e recupero un bel po' di roba da buttare e me la porto qua e piano piano inizio a recuperare, io recupero tutto, una volta vado su internet, trovo dell'apparecchiato, dei baracchini, magari 5, 10, 15, li prendo, me li faccio mandare, li smantello e recupero un sacco di pezzi che non trovi, dalle manopole a integrati e a una serie di cose, capite? Voglio fare la stessa cosa, vediamo se uno di questi baracchini all'interno monta lo stesso integrato, ma credo di sì, perché credo che poi alla fine, come il lo stadio finale, non lo so, lo sai che devo guardare, però volevo fare questa roba qua e volevo fare questa modifica su questo apparecchio, vediamo. Piano piano, però piano ti ci metti, un pezzo oggi, un pezzo domani. Così, un pezzo oggi lo sto facendo giusto per, io poi entro qua, molte volte mi preferisco fare anche un po' di laboratorio che fare il radio, capito? E quindi mi ho preso questo attento qua, ma non per altro, giusto per testare d'aria, perché vedo che i centri li modificano, li mandano non so dove, sembra che hanno fatto chissà che cosa, si guarda, noi siamo in menu qui, allora stavo cercando di capire, alla fine non è niente di così complicato, dai, bisogna lavorare, se non lo so, quando lo farò lo proveremo. Non so ancora, sotto. Due, tre, quattro cose le ho già fatte, c'è al 50% ancora, ce n'è da fare un po'. Va bene, dai, riprendi già che mando, che proseguo qua, rimango in ascolto. Ehi, vabbè, buon pomeriggio, mi ha fatto piacere ascoltare, intanto entra, ci fa piacere. Va bene, tocca, Riccardino, riprendi tu. Anche questo qua è fatto, computer. Adesso facciamo, saliamo gli aggiornamenti, là. Perché non si ricordava la password. Vabbè, poi era pieno di virus, poi era Windows 10 con PC vecchio, non rende, meglio 7. Oh Luca, ti volevo chiedere, ma secondo te è una buona cosa prendere una boomerang per metterla a casa di nonna, che forse così mi senti meglio invece di con la vescolare? Beh, una boomerang rende di più, a me già mi arrivi forte così, pensa se metti una boomerang. Vabbè, ti sentiranno anche gli altri, non solo io. Sicuramente da me arrivi fortissimo. Vedi tu. Secondo me sì, rende. Davvero. Black e Breckles. Ciao Gianni, buonasera. Ho sentito Riccardo, ho sentito Luca, poi c'è qualche un altro? C'è la Fabrizio, l'ascolto, poi Angelino, non so se ci sia ancora. Poi, ciao Massimiliano, ci ho consigliato di ricercare dei documenti, non riuscivo a trovarli, meno male al tuo momento che sono riuscito a trovarli, domani devo presentarli, se no è un casino. Positivo, là. Vabbè. Saluto anche a Fabrizio dell'ascolto. E niente, va, io ho appena atterrato a casa, 5 minuti pure, e faccio una bella doccetta bella calda. Vabbè Massimiliano, che la gara. Oi, ciao Luca. Ciao Angeli, buonasera, ben ascoltato anche a te, dai. Cosa? Super? Shadow. E mi devo rifare gli occhi perché è bello, eh. Sì, è bello, è un base molto bello, a me piace, è stato per il rum che è molto bello. E a cosa si assomiglia? Che base è? No, non so cosa si assomiglia. Già, tu l'hai vista questa radio? Sì, allora ti stai in pedina, c'ha tutte le manopole cromate, così, dai, no, le tipiche radio, quelle vintage sono. Ma se mi danno appena una, non so se tu ce l'hai quel forum, spirito anni 70-80, CP con lo spirito degli anni 70-80, guarda la prima radio che c'è, è una adesso ce l'ho sotto carica al telefono, poi lo guardo, no, io mi piacciono più quelle, le basi, quelle Cobra, quelle fatte a tipo pianoforte, non so se le hai viste. Oh mio, ma quella è una Colt, è Colt. Chi è che ha detto come il mio? Ciao Massimiliano, io mi sto usando proprio quello in questo momento, io quello tipo pianoforte. Come sta uscendo il microfono? Vi ho fatto un adattamento allo spessore a questo baracchino. È un po' barattoloso, eh? Vabbè, aspetta, Adesso cosa c'è? Anche l'eco c'è adesso? No, negativo. E adesso lei qua c'è, adesso ho aumentato un po'. Ma c'ha un effetto camera, tipo un reverbero, ma leggerissimo. Perché il microfono con l'eco, il come si chiama, l'eco, l'intec, non me ne metto più, ma cosa diciamo, no, ce l'avevo nel cassetto, adesso l'ho visto e ho fatto uno spettone. Comunque, adesso l'ho aumentato ancora l'eco. M500, ma 600, cosa? Sì, che ti sento Riccardo. Ciao Gianni, ciao Riccardo, ciao Massimiliano naturalmente. Sì, no, l'ho voluto provare, ho fatto il testone. No, adesso ho sentito che stavi parlando che ti piace il Cobra, cioè, tipo pianoforte, è quello che sto usando io in questo momento, Massimiliano. Lo so, ce ne sono vari modelli, Ce ne sono vari modelli, sono belli. Beh, le radio Cobra, la verità, sono la maggior parte sono tutte belle, le basi e tutto il resto, là. A me il Cobra come tipo di radio mi piace molto. Buonasera. Ciao Cla. Allora, riprendi Cla, guarda che c'è anche Angelino, che io mi faccio la doccia, là. Faccio una bella doccetta e poi riprendo, ok? Vai tu Cla, poi non ce l'hai tu, vai. Ehi. Io ce l'avevo con la radio lì, Cobra, però l'avevo fatta a Franco California perché esteticamente non mi piace, proprio perché è fatta in quella maniera lì. Tocca bene da sopra, vabbè comunque, a chi piace. Va bene, buonasera a tutti, dai. Avanti, riprendi Angelino. Però io sono entrato a salutarvi un attimo perché non la prendiamo una pastiglia che c'è un mal di stomaco, oggi è allucinante. Riprendi Angelina, ti mando un attimo in Corix, poi riprendi. L'M300 l'ho adattato in questa specie di pianoforte. tutto lì, vabbè, non funziona, se non ha, se non ha il problema, lo prendete, dai. Ecco, l'obiettivo di sotto qua, per rimbombante. Rimbombante forse perché era troppo vicino, adesso me lo devo guardare dalla bocca, così, non so, oppure passo l'eco. Vedi, così è un'altra cosa. Così, ma è distante, mi tutta la lunghezza del braccio, così. Ma c'è l'eco, l'eco non mi viaggia a me, già lo sai, com'è a proposito? Così va bene, come stai modulando adesso, va bene. Ah, così va bene, adesso prendo un metro e misuro tutta la lunghezza del braccio, caspita, va bene, dai. Va bene, grazie per il controllo, dai, e riprendete pure, scusate l'interruzione. Ciao, avanti, Riccardino. Vabbè, dai, comunque si sta ripopolando, e come speriamo che lui la sappia, vero? Adesso già non ho capito, stavo lavorando e dunque ero un po' distratto. No, Riccardino ha detto che con la sera prima del coronavirus lui non c'era, però ha visto che adesso c'è molta gente frequente, ha detto speriamo che lui dopo che sia più presto che sparisca questa epidemia, però praticamente che duri, che ci sia sempre gente anche dopo. Speriamo che sia così, ma ho la vaga sensazione che è finito il periodo del virus, tutti se ne vanno in giro e magari abbandonano sicuramente anche la radio, ma comunque sapranno loro cosa devono fare. Ciao Angelino. Ma chi era questo, Angelino o Gianni da Ulo? Perché arriva molto basso. Chi era Gianni o Angelino Mario? Cioè Gianni. Gianni sì? Se è troppo basso non si capisce. No. Buon Giulio. Sì, dimmi Riccardo. Il microfono l'ho amplificato e con l'eco l'ho abbassato adesso l'ho abbassato, migliorato adesso. Perché l'eco, ma a me l'eco non piace, ma lo stavo solo provando, dunque, perché questo qui era buttato in un cassetto, oggi l'ho trovato tra le mie cose e l'ho adattato a questo baracchino che sto usando in questo momento. Adesso l'ho abbassato ancora. Così, ancora troppo amplificato, è troppo effetto cattedrale c'è. Se no posso abbassare ancora, vedi, ho abbassato ancora un po', dimmi come va bene se adesso in questa posizione. Va meglio così? Lo posso abbassare ancora, ecco, l'ho abbassato ancora un altro pochino, questo qui è un microfono amplificato, dove c'è l'eco, capite? Ma almeno così c'è più chiaro. E chi è questo che sta parlando di propagazione? Sì, a me infatti interessa che sia chiaro, pure l'eco non mi interessa. Ecco. Adesso l'ho tolto del tutto, adesso l'ho tolto completamente del tutto, adesso ecco non ce ne dovrebbe essere. Ok, vabbè, là. È stata solo una prova, intanto per passare mezz'ora stasera che mi stavo giocando con Saldatore, là, eccolo, con questo microfono. Vabbè, grazie per il controllo, riprendi pure, fai girare per gli amici e io poi rientro con un break, là. Ok, 10 ore stavo, stavo facendo roba al telefono, mamma mia che stanco. Almeno forse. Ti piace? Sì, è molto bella, sì, è General Electric. È una radio che io non avevo mai visto. Questa qua è palestrata la radio, è una radio palestrata, ma è bellissima, a me piace tantissimo, a me piace molto, e lì ci ti americani dentro più bello. Così su internet. Ma no, c'è un programma, ma da noi adesso lo da sempre. Adesso stasera l'ho voluto controllare di nuovo, cioè vedere un po', c'è sempre, tranquillamente. Tu prendimi, aspetta, c'è scritto SDR, scrivi che va, scrivi quella cosa e poi ti appare la pagina, scrivi, prenditi la penna, dai, dopo te lo dico. Dai, c'ho carta in mezzo. Prendi la penna, allora, prendi, è web SDR, tutto attaccato, web devi scrivere con la V doppia, iniziale, e, allora, websds.com, qui ti è, poi c'è T, poi vedi tu. Ma SDR o SB? No, web SDR, ripeto ancora, websdr.com. Sì, sì, ho scritto, sì, già ecco, ho capito. Apri quel link lì, vedrai che... E poi cerchi, no, ci sono da tutte le parti del mondo. No, cercati qualche stazione italiana e così puoi sintonizzare anche i 20 metri, gli 80 metri, i 40 metri. Io ho sintonizzato un po' tutto, anche i 160 metri ci sono, tutte le frequenze in poche parole, anche la radio nazionale, e tutto c'è. Ma mai tu la radio è arrivata qui? Sì, stavo guardando, questo guardachino, lo stavo guardando. È bello. È bellissimo, questo è bellissimo, certo. Ma questo non è tuo. Almeno. Non è tuo questo. No, non è mio. L'ho preso da un forum dove dimostrano gli apparati che c'hanno, eccetera. L'ho preso da lì. Ma mi è piaciuto e l'ho preso. Che è già arrivato praticamente. Una fotografia l'hai presa dal giornale, dal computer. Esatto. E l'hai ordinato? No, non è in vendita, l'ha messa solo in visione, basta, fallo vedere, fallo vendi su. E compratelo, no? Non è in vendita, come faccio a comprare? Non è in vendita? No, no. Bello, è bello, molto bello. E vabbè, ce ne sono anche dei migliori, non è detto che ce ne sono quello o un altro, se proprio hai intenzione di comprare qualcuno. No, non ho intenzione di niente. Prima questi che ci sono. Fabio c'è per caso, prego da Bicchi. Ciao Blacco. Ciao Blacco, avanti. Ma volevo vedere, c'è Fabio per caso in frequenza? Chi ci deve essere? Non ho capito il nome. Comunque chi c'è? Chi siete in questo canale? No, sto cercando Fabio comunque. No, Fabio non c'è, su questo canale non c'è Fabio. Beh, se non lo senti tu, che arrivi vicino a te, qui da me non arriva Fabio, per cui Fabio è lì vicinissimo a te, solo tu lo puoi sentire, e qualche altro che è lì da quelle parti. Poi quando comincia ad allargarsi un pochino, alla distanza non sente più nessuno, perché non ha l'antenna, come si vede. Capito, tu stai modulando da muro, comincio sbagliando. No, sto modulando da sassa io. Buongiorno. Ti ha preso per cambiare due. Schiaccia papà che non saliva, adesso sta salendo. Ma sto scendo già. Beh. 10 minuti che schiaccio e non saliva la portante. Ho dato un coppettino e evidentemente sono nel nuovo cussi a questo baracchino. Qualche falso contatto ci deve essere. Che baracchino è? La rota per 7. Ma 3.000 euro, qual è la vostra? 3.000 euro. Giovanna deve chiedere il suo 3009, non è mio, lo sto sotto a casa sua, c'è la maschera del tornado 4S, devo stare, anche la valutazione dietro. Ah, c'è anche la mascherina del 3009 originale sua, c'è per questo. Andrà bene. Via, d'accordo. Come va che vuoi comprare il 3009, Dove fare l'adesivo bianco dietro, marcato c'è, nelle mascherine e fa l'omologato? No, assolutamente no. No, qualche gente sta tirato le, il marchio c'è dalle, dalle adesivi, ce lo sta piazzando le baracchi. Avanti, chi è? Italitali, non Saudia. Guarda, l'ultimo, l'ultimo che è entrato, c'ha la voce rimbombante, non si capisce, anche se c'ha segnale fortissimo. Io? O io? Se fosse sei tu, mi già le se vuole comprare la baracchino tu a letto. Ciao Giovannina! Ma non sono Giovanna! Ma sei Giovanna? La figlia! Ah, pensavo che fossi Coca-Cola, tu sei aranciata, Fanta! Sono bruttone, non aranciata! Ciao, buonasera, ben sentita, dai! Noia! Questo zio che c'hai, non si può fare di cace nell'ana. È sicuro. Camuro. Chi è su Camuro, chi è? Giancasino, c'è giù. Ciao Claudio. Ma cosa sei di sempre? Via Fabio, me. Ti stavo cercando Fabio. Mica sono natalino, gà. Vabbè, ma è incappettato perché ho l'altro giorno sul portatile. Ciao natalino, c'è il baracchino uguale al mio. Fa. Vabbè, comunque sia, il microfono è diverso. Almeno tu c'hai il microfono amplificato. Adesso ci vado al GBC Micro, un po' spinotto, a proposito, che mi è venuto in mente. Così mi metto il microfono F10. Cava cava. E l'altro che ti ha dato cosa funziona? Ia ia. Meglio o peggio dell'originale? E così è. Ricordami quando passo da te che ti do la... come si chiama, ti do? La lo schema elettrico di quel baracchino lì, che me l'avevo mandato. Capito? Così ti trovi la LC e te lo modifichi. Scappa. Avanti, Ale, Alessia. Adesso sta venendo avanti Alessia, amici. Cazzo, sono anche Fabio, c'è. Tutti dici. Gappa gappa. Mi hanno rubato casa, mi Gianni, non c'è più in casa di mia sorella. Tu sono tutti lì, o no? Siamo in riunione. Bella che arrivo anch'io. Era che tu, io, porta gelati. L'altro porta la birra e poi le bistecche. Facciamo festa così. Ehi, è tanto vicino, stai tranquillo, i carabinieri non ci rimanda, come è successo a quell'altro. Cazzo, allora. Andare, Ali, sempre in allegria. Sì, se lo fai così, cosa fai? A t'ammazzi. Per carità, guarda. Allora c'è la gente che vede l'ospizio si sta caricando di roba, birra, whisky, di tutto sta portando via. Non c'è più nulla, arriva la birra la domenica, il martedì non c'è quasi più di lattine. Ma vedete, ce lo vuoi, Giulio, puoi passare un attimo al 20? Secondo me te le fai fuori tutte e tu, Ali. Giulio. Giulio. Ciao, Claude. Vito, fa vedete ce lo vuoi, mi, non fate girare, no. Giulio dove è andato? E qui. Era qui. Poi sparito. Per forza, se ti fa vedere ce lo vuoi. E abbiamo fatto due o tre passaggi, non di più, già lo sai anche tu, ma senti Giulio, c'è gente che parla da sola a me, per mezz'ora, io sono ascolto perché mi piace. Ecco cosa succede, vedi? C'è l'importante con la musica, vabbè. Angelino! Angelino ha chiuso qua. Ma guarda che abbiamo dato un numero in meno di quel numero che mi hai mandato, ci manca un numero. L'ho mandato nuovo, che me l'hanno mandato poco fa, ha sbagliato lui. Te l'ho mandato nuovo, guarda il telefono. Che era? Ci avevamo un altro in più alla voce. Due ce ne sono in più. Giulio, ci sei? Uno è sparito Giulio, forse si è sentato un attimino. Comunque deve entrare Gianni, mi ha chiamato Cocisse al coso, su Facebook. Mi ha dato il numero di telefono di un tipo, non so se sia un senatore, cioè un senatore, un coso. Metto il telefono, ancora lo sto aspettando. Cocis, mi ha scritto, infatti, Cocis. La chiamata a me dice che stava davanti al baracchino. Allora, ho detto va bene, quando vuoi. Devo adesso chiamare, non so chi sia, se Dice, per un amico mio l'ha detto. Non so che diavolo sia questo. C'è la mattata da ieri, con l'avviso, la regio matta che sta. Ci vuole il virologo, ci vuole, quello di ieri, ragazzi. E giù, ti faccio ammazzare, però il coronavirus l'ha resumato tutta... Ma, vabbè. Tutta la 27 ha resumato il coronavirus. Sono contento, era sempre vuota questa frequenza. Tutta la mondetta ha resumato, ma tu lo sai che hai concessi? No, il nome antico lo conoscevo, però non lo conosco di persona. Sì, vabbè, te ne accorgerai se entra in radio. Meno male già c'ho altro io, non c'è solo la 27, perché mi pare che sta diventando un po' nuovamente come gli anni passati. E chi è entrato che non va bene? Mie opinioni personali, Gianni, no? Non mi interessa a me, ma io la penso in una maniera. Io tratto bene, chi mi tratta bene, tratto bene. Non so chi sia, io il nominativo lo conosco, quello di personale. Vabbè, te non avrei abitato, torniamo a dare ai vecchi tempi. Anzi, tornate, perché io già faccio altro. Giulio! Dimmi qua, dimmi. Io vai al 20 un attimo, vai. Va bene. Brava. Avanti, Fabio. Ma qual è? Scendici. Ti voglio guardare quando hai fatto di mica, se l'hai visto stamattina. Noi siamo una famiglia riunita. Non lo so che ti manco, caro, so. Brutto porco fottuto, ma il numero che ti ho chiesto si è recuperato, malai. Non ho capito, cosa hai detto? Se ti ho recuperato il 2? Il numero che ti ho chiesto l'altro giorno. Guarda, con tutto quello che c'ho in testa, con quella lì, la capellina, futti di lì, mi ha lasciato Giovanna. Quindi, io te lo ricordo, siamo usciti di capo tutti e due. Già lì che siamo usciti di capo. Ma appunto per quello. Avanti Gianni. Ha pagato. Con chi sei rimasto, Alice? C'è Ale, c'è Fabio e c'è Davide. Sì, adesso siamo tutti, vabbè, loro sono dello stesso appartamento, io sono qui sopra. Ma Davide lì è pappagappa. Vai, ti mando il numero adesso, l'ho procurato. Vai, grazie mille. Vabbè, rimango in quel rixio, dai. E tu come va già nello più giorno? Chi sei? Non ho capito chi sei. Ciao, buonasera. Il figlio di Mario Mancel. Davide. Beh, come andiamo? A due gambe. Lo so che siamo bacini, ma procediamo. Ma sempre da quella zona stai modulando, Davide? No, da casa di Coca-Cola. Davide, canale 45, questo si è sbagliato di un bel, noi siamo sul 10 di un bambino, canale 45, Gianni, è a casa di Giovanna. Sarà stata la registrazione quella, Alice. Senz'altro, magari così, però si è sbagliato di parecchio già, cazzo, siamo lunghi così. È un piccolo errorino. Piccolo? Cazzo, chiamavolo piccolo? Sono 40 canali meno 10. Ali, fai girare, dai, rimango in quel X che sto facendo cosa. Fai girare per Davide, per Daniele, per tutti quelli che ci sono, dai, c'è anche Riccardino, avanti Riccardino, vediamo. Lo sapevo che c'era una verità, che sono entrato, vabbè. Chi c'è rimasto, avanti, si faccia avanti. Chi c'era la prima volta, prima volta io. Quello è più riuscito. Vabbè, e piglia Davide o Vu, che c'è giù, il terrazzino. Noi tre ci siamo, l'ho tagliato con furore. Allora, già va bene, già. A me l'ho pigliato un pochino di fresco, caro, pigliate. Ui, ui. Porco, lo sai, sì, che ora deve essere il bambino, perché si è recuperato il numero, sì. Ah, quello là, vorrei dire, eh? Adesso ho capito di che... Vabbè, io sai che te l'ha giusto, tu ordinati quello che devi ordinare, poi... Già ci pensa Alessia, che Alessia già sa come fare. Hai capito? Tu fai come ho fatto io, lì sono dei contanti che lì immediatamente ti fa arrivare i pezzi in due giorni. Al terzo giorno lavorativo del suscito e vedrai che sistemiamo tutto sopra e torni come prima, come la volta. Cambiamo i cavi e ti faccio vedere che diventi il numero uno della croce torna. E così ti faccio schiantare. E così fai schiantare anche voi. C'è problema, che con quella gente già, quello già pompava già. Era veramente bello, mi è dispiaciuto veramente. Quel giorno lì, guarda, quando l'ho visto, stavo, mi è venuto in mezzo, girato, ci ho riportato dietro a casa del proprietario, invece tu l'hai lasciato lì. Non pensavo che quello attaccava tutta quella roba lì in quell'antenna. Già mi immagino come l'avrà fatta, ma... Purtroppo, erano vecchi tempi, adesso ci sono i nuovi tempi. Quella che c'è sopra di te, sopra la testa di antenna, quella resiste 1200 watt. No, lo tiene giusto giusto il bambino. Certo che lo tiene giusto giusto. L'unica cosa che devo cambiare è il cavo. Quel cavo, quel tipo lì non va bene. Ci vuole l'altro RC58. È bianco con rivestimento in argento. C'è doppia calza, cioè quello già resiste 8200 perché lo usano i camionisti. Non è che mi devo comprare un appartamento, mi devo vendere un appartamento per comprarmi tutto quanto per fare tutto nuovo, eh. Mettiamo, vediamo se ci siamo per stazionare quel cavo. E quel cavo sta tranquillo, te lo dico io, minimo è per 5-6 metri, perché ci sono me. Quando ho venduto le RG213 io, che non lo usavo più, quando ho cambiato casa, è stato 5 anni fuori, forse 5-6 anni, sono andato a controllare le RG213, era 6 metri, ne ho perso perché è diventato verde letto, capito? Quindi bisogna tagliare il cavo metro per metro, finché non troviamo la calza al positivo che è a posto. Se sei fortunato che si riesce a recuperare, bene, se no ti pigli il cavo nuovo, altro non puoi fare. Te lo dirò da fuori, una mattassa a 100 metri e ti fa la discesa. Tanto mi pare che sono 5 piani da te, 5-6 piani, quindi ci dovresti arrivare subito. Ti è arrivato là? Ora non c'ho Facebook. No, spero di sì, però, che almeno cazzo torniamo alla vecchia base. Ma comunque te l'ho inviato. Quando arrivi a casa, ti controlli il tutto. Kappa, grazie mille, Edu. Ma a casa, sì. Papà sembra a casa, è nato, e chi lo tocca? E vabbè, poi con questo cavolo di virus in giro, per carità. Babbo ancora già fa Lugani, ma pure tu, pure Lugani, babbo. Ora le fa compagnia. Ma oggi Stifili fa più compagnia a un cane che non si un cristiano. Già non credo, ma è più intelligente di un cristiano. E molto meglio da sta gente, puro. Ehi. Vabbè, là. Che buona chiamata, chi lo è quello che c'ha questo bip? Che cane c'hai, Davide? Ma la verità non lo so, sto abusando oggi. Non lo sai che razza è? Sì, è quello di porco. Lo sai? Il 2009, cazzo di incoglionito, c'hai il bip 48.000, lo sai. Tu gli so che da me, mamma mia, chi da una parte e chi dall'altra. Non sei contento, me lo incassi i soldi. Ehi, vabbè, ma il tempo è quello che è, lo so. Per ogni cosa ci vuole solo tempo, capito? Andare. Se vuole che la gente non tiene, beh, non tiene conto le cose, bisogna tenerle conto. Cazzo, un telefono ci installano di tutto e di più, mondezza, di giochi, funziona così. Poi un telefono che, come si dice, che poi magari non c'ha spazio, no? Lo incasini. E comunque c'è un po' di gente che sta caricando, anche Giuseppe l'altro giorno ha avuto problemi con l'LG, perché ha caricato un sacco di funzioni, capito? Quindi ha cominciato a scaricarsi la batteria. Voleva portarlo dove l'ha comprata a cambiare il telefono, gli ho detto guarda non ce l'ha neanche perché si ricomincia a colpare il difetto, gli ho detto, dell'LG. Quando gli scarichi un bel di mondezza, allora di queste app strane, gli ho detto, in automatico lui se non la metti la memoria va in tilt e quindi ti scarica la batteria, ti scarica la batteria. E in casino un po' tutto, dai. Se non c'è un telefono che non c'ha un bel po' di memoria, non fai niente. Ah, io non ci metto niente, c'ho qualche gioco così, ma poi lo gioco, quando mi stufo poi lo disinstallo. Nel resto non metto altro. Vabbè, Giuseppe ci ha messo un sacco di roba, ne ha pochi di cose, di app, cancellate, abbastanza calde. Gli ho detto stacca un bel po' di app, gli ho detto, tieni, sono quelle essenziali, e il telefono funziona benissimo, ti avvisa anche l'attore del telefono, te lo scrive pure. Se per caso metti un sacco di app, allora vai in automatico, intanto devi fare pulizia, hai capito? Come succedeva a me, in automatico, quando gli ho messo, come si chiama, facciamo pulizia in automatico. E mi scaricava le cose. Adesso non è che ho cancellato un sacco di app strane e quel difetto non ce l'ho più. Ma prima saldava, ce l'ho. Immagina che me lo mettevo in tasca, non si poteva neanche tenere, bruciava, la gamba ne bruciava. Un giorno ce l'ho messo dentro al frigo, nulla, neanche quello, cioè, poi ci ho messo la birra sopra, niente. E cos'era? La questione che ci avevo messo un sacco di app. Ho preso le cancellate tutte, l'ho resettato e da quel giorno ha funzionato bene. Purtroppo ci vuole la memoria e poi secondo cosa metti, capito, i casini computer. Va il tablet, il telefono. Oppure ci sono quelli che rompono il connettore. Esso Maria. E beh, lo usi con il caricabatteria attaccato, con il filo, si rompe, perché ti stracci da una parte, stracci dall'altra. Una volta che carico prende te lo usi. Sì, ma è così. Giuseppe è capitato tre volte ormai. Questa storia del connettore, perché lui fila in tasto, fa forza, a parte si mette il telefonino dal sedere. E quindi a un certo punto premi, con sedere non ti siedi, fai pressione e si spacca tutto. Capito? Gli ho detto un sacco di cose, Giuseppe ha detto, non premi il tuo telefono dietro al sedere, dalla tasca. Mi spacco il telefono. Se ne è accorto, meno male. È un casino. E poi vogliono 30, 50 euro per saldarti questa cosa qui, capito? Non era con la pena. A un certo punto ho finito a prendere un telefono di quella seconda mano, di quel modello vecchio e sono migliori che ci sono. Se potevi mettere anche in tasca, non succedeva nulla. No, non è che l'ho fatto gratis, non l'ho saldato, praticamente l'avevo un po' allargato, bastata una pinza, stringerlo un po' e ha ripreso a funzionare. E allora ci va bene, la voglia. Cosa vuoi fare? Santa Rania, via. Brecco. Avanti. Eccomi qua, Fabrizio. Mandate un po' di video a Riccardino, così lo invoglio a prendersi la patente. Qual è il problema? Io sono contento se si vede la patente. Almeno è tranquillo, no? È appassionato. Vediamo se c'è, ma c'è il baracchino? Era quasi un boot, forse mezz'ora fa, una cosa del genere. Gli ho mandato un paio di filmati, gli ho fatto vedere due cosucce, dai. Perché così capisce che c'è anche... Aspetta, devo rispondere all'altra parte. D'accordo. Cioè non vuoi fregare proprio, Fabri? Lo fa bene. Almeno si piglia la passione dell'arrivatore, ha 18 anni, piglia il patentino e è tranquillo. Si installa le antenne che vuole e si diverte. Vai in digitale, vai in coso, con computer. Adesso è a 16. A 16 ce la possono offrire. Hola, hola, Coca-Cola. Avanti. Bulldozer. Poi a me, ripreso. Gaba gaba. Oh, qualcuno si deve tagliare i capelli. Cosa? Guarda, qualcuno si deve tagliare i capelli. Ma no, perlomeno io no, me ne sono rimasti 3 euro e me li faccio io. Poco, ma tua macchina ti ha portato i cani, i capelli di tagliare. Il cane non ti conviene, guarda, perché già ripeto da solo, ci vuole aspettare poco.